Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Stiamo insieme fino alle 19 in questa domenica senza calcio di Serie A, ma perché così prevedeva il calendario, non perché sia successo qualcosa di particolare. Ha giocato la Serie B, tanto avete sentito, è la, tra i tanti simboli che accompagnano, che hanno accompagnato in queste ore lo sport e quello che è successo venerdì sera a Parigi. Io devo dire che l'idea della nostra Serie B di far suonare e cantare la Marsigliese quasi come ideale staffetta con i tifosi francesi che venerdì notte sfollavano dallo Stade de France su tutti i campi della B, a me è sembrato un bel simbolo. Carlo Genta. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Per quello che valgono i simboli, poi calcio e sport non si sono fermati. Calcio e sport non si sono fermati, ma credo sia stato anche giusto così, corretto così. Tra l'altro ieri sera si è ripreso a giocare proprio Ibrahimovic, è stato il portabandiera di questa prima partita dopo ciò che è successo a Parigi. Sì, simbolo, quello della Serie B, però un bel simbolo, una bella idea. Le belle idee certe volte non costano niente e si possono mettere in pratica con grande eleganza. Bravo a Bodi. Sì, non ci si è fermati, si può anche discutere se sia giusto o no, perché il confine è sottile tra il fatto che giustamente non si possa dar la vinta ai terroristi e anche l'idea che poi in realtà lo show debba proseguire sempre. Comunque lo facciamo fino alle 19, parleremo anche di se sia opportuno, giusto oggi pensare che a giugno gli europei di calcio debbano andare necessariamente in Francia, oppure sì, se invece si possa fare una riflessione diversa. 800 24 00 24, ovviamente parliamo anche d'altro. Saluto Demetrio Albertini. Ciao Demetrio. Ciao, buonasera a tutti. Giusto o no che calcio e sport, a parte la Francia, ma c'erano anche ragioni di sicurezza, oggi non si siano fermati? Mai, come ho sentito, non è tanto per lo show quanto per rientrare velocemente un po' nella vita normale, perché deve continuare e questo ci ha toccato un po' tutti l'avvenimento, però si deve proseguire cercando poi di lavorare per il futuro, per un futuro immediato, no? Di sicurezza. Non vedo perché ci si doveva fermare in realtà. Nel 2001 ci si fermò, sì, a parte le prime ore, sì, se ricordate la sera delle Torri Gemelle ci fu la Champions League, ma il giorno dopo le partite poi furono spostate, cancellate. Sì, ma non c'è una ragione. C'è una ragione che si deve fermare, nel senso che si deve continuare per rientrare proprio nella vita, non sì, tanto sì, per ragione. Lo show, quanto per rientrare nella vita quotidiana. Si va normalmente a lavorare tutti quanti. Sì, no, è proprio per quello che non è solo perché lo show non si deve fermare, ma proprio perché sinceramente è cercare di rientrare con il dolore nel cuore, ma di rientrare nella vita quotidiana il prima possibile. Tu nel 2001 eri nel Milan, giusto? Sì. Che però, se non sbaglio, quell'anno lì faceva la Coppa UEFA. Sì, Tu che ricordo hai, ad esempio, di quelle ore, di quei giorni lì? Ma io mi ricordo espressamente, addirittura mi ricordo che ero in visita, stavo ristrutturando una casa, la mia casa dove sono adesso in questo momento, ed ero proprio, la notizia l'ha presi proprio in questa casa mentre ero qui a seguire i lavori. Che voi credo giocaste regolarmente senza mai saltarne una di partita in calendario. Ma ci sono delle situazioni che non è tanto come si è detto anche precedentemente, poi alla fine hai la situazione proprio del, non è del dispiacere, ma del cordoglio, di quello che ti può, è difficile trovare le parole giuste per definire questo massacro, per le persone che sono vittime e per quello che è accaduto. E anche in quell'occasione lì ti rendi conto che è un avvenimento enorme, grande, mondiale, che però tu stai facendo, stai percorrendo la tua vita, che era quella di calciatore, oggi come per tutti, ognuno c'ha la sua professione, e poter riuscire a pensare e aspettare le persone che e le decisioni delle persone che devono prendere le decisioni. Cioè tu dici, se un operaio va a lavorare il giorno dopo le Torri Gemelle, il giorno dopo questo massacro francese, a non cadere nella demagogia. Beh, però ad esempio una demagogia inutile. Ad esempio quello che è successo venerdì sera a Parigi tocca da vicino anche il simbolo dello stadio, dello sport come molto, momento di svago, forse anche per questo, anche secondo me. E poi magari ne parliamo dopo il traffico, anche proiettandoci su giugno, perché ripeto, il dibattito i francesi l'hanno aperto subito, nelle ore subito successive alle stragi di venerdì sera, proiettandoci sull'europeo che a giugno si giocherà in Francia, anche perché queste grandi manifestazioni poi danno una grande cassa di risonanza a chi voglia fare queste azioni. Magari c'è anche da riflettere se sia opportuno o no concedere a questa cassa di risonanza questa possibilità. Beh, sai, lì è un problema serio, è vero, lì non si tratta tanto di spettacolo eccetera, si tratta di serissime ragioni di sicurezza. È stata la prima volta in cui hanno provato a portare il terrore dentro a uno stadio così vicino al calcio. È chiaro, c'è un ci sarà gente da tutta Europa, ci sarà un grande asseveramento di persone, ci saranno stadi nuovi e pieni. È chiaro che sarà un palcoscenico importante, ma non è la prima volta che viviamo in situazioni di questo tipo, perché come sappiamo le Olimpiadi ogni volta sono monitorate, c'è stato Sochi, ci saranno i mondiali di calcio in Russia. Insomma, lo sport è da sempre può diventare un boccone ghiotto per il terrore. Sì, 800 24 00 24, oppure potete anche scriverci 349 238 6666, anche via WhatsApp. Ci fermiamo un minuto, c'è il traffico, poi torniamo con Demetrio Albertini, c'è anche Luca da Udine. Traffico. Ciao a tutti, sono Alex Del Piero. Mi ricordo ancora la rete in semifinale contro la Germania ai Mondiali 2006, una grandissima gioia. Ma ricordo anche le sconfitte e le eliminazioni. Andare tutti insieme in Francia senza paura, ecco, questa sarà una grandissima vittoria per tutti. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Tutti convocati. È inutile che facciamo finta di niente. Sono fatti che preoccupano. Questo è fuori dubbio, anche perché se poi si utilizzano delle situazioni particolari per fare degli attentati terroristici diventa, cioè comunque viene un po' di timore e un po' di paura, sinceramente. Non è inutile che siamo qui a fare i filosofi Sì, perché un po' di paura viene, poi perché poi scopri, anche se paradossalmente in tutta la vicenda di venerdì sera, alla fine l'aspetto della sicurezza intorno a un grande evento come una partita di calcio esce bene, perché come abbiamo avuto modo di leggere la sicurezza intorno allo Stade de France ha tenuto. Beh, certo, per fortunatamente per fortuna. Anche questo è un elemento da considerare. Oggi Vittorio Feltri su Tutto Sport in prima pagina firma un editoriale Avanti Europa, dove dice: noi sappiamo che siamo in guerra, che ci saranno altre azioni terroristiche, che magari verrà colpita ancora la Francia, ma malgrado tutto non bisogna arrendersi, gli europei devono essere giocati lì. Questo è l'opinione di Vittorio Feltri. Io credo che questa sia, abbiamo lanciato il sondaggio, è un'opinione anche diffusa tra i nostri ascoltatori, però io torno a ripetere, forse è un po' ipocrita chiedere al calcio discorso pragmatico. Lo chiedi alla musica, cosa vuol dire? Non ci saranno più concerti in Francia di grande portata. Abbiamo visto che gli U2 non hanno suonato, giustamente il giorno dopo c'erano motivi di sicurezza, non hanno suonato a Parigi. Però cosa vuol dire? Che a quel punto, e non parlo a caso di concerti, che a quel punto non puoi più permetterti un assembramento di persone. Questo vale per tutto lo sport, non solo per il calcio, anche il rugby molto popolare, ma quello che vuoi. A quel punto Roland Garros si gioca o no? Sì, però secondo me almeno si può discutere, non lo so, Demetrio, o dobbiamo prendere il pacchetto chiuso, che non ci si può arrendere, lo sport deve avere questa funzione simbolica. No, ma qui stiamo parlando di un grande evento, che sono gli europei. Spostare la sede, se i terroristi vogliono colpire, perché per avere la visibilità l'avrebbero da un'altra parte, ma non sarebbe quindi quello il di più o il di meno. Giustamente quello che è successo in questa occasione non è solo l'esterno di uno stadio, visto che ha tenuto bene la sicurezza, ma è anche l'interno di un di un teatro, l'interno di alcuni ristoranti e dei bar, stiamo parlando dell'imponderabile, dell'incontrollabile in questo caso, quindi sinceramente non è tanto per dar la vinta ai terroristi o a chi vuole la visibilità, ma ricordo che nel nostro paese non è passato ancora un mese che è finito, che c'è stato il come si chiama, l'Expo, e quindi ci sarebbe stata l'opportunità di qualsiasi attentato di visibilità. Nel 2016 sempre ci sarà un'Olimpiade in Brasile e quindi potrebbe capitare anche lì, quindi dovremo convivere con cercando proprio di prevenire e assolutamente di poter avere i grandi eventi, ma soprattutto io dico anche la vita quotidiana con la tranquillità e con la sicurezza più possibile. Sì, 800 24 00 24, rubiamo ancora un minuto a Demetrio Albertini. Pietro da Milano, Pietro. Sì, buonasera a tutti, grazie. Eccoci. Per darmi questo spazio. Grazie. Io a te. Io volevo dire che secondo me non è corretto e neanche possiamo circoscrivere il problema alla Francia. Non è che un evento in Francia è a rischio e uno in Italia non lo è, perché al di là delle dichiarazioni che sono state fatte in cui prossimi obiettivi potrebbero essere a Roma e Londra, io quello che dico è che è tutto un attacco contro obiettivi che sono nel mondo occidentale. Quindi limitare e dire lo togliamo dalla Francia, ma dove lo portiamo? Lo portiamo in Italia, dove potrebbe esserci la stessa cosa. Sì, però ricordo... oggi stiamo parlando della Francia, cioè, sono lì, ma poi il tema non è tanto se vadano fatti o no, è se debba essere caricato sullo sport in generale, sul calcio in questo caso, la responsabilità di dover dare il segnale che non ci si arrende, cioè, e quindi debba essere dato per scontato che si possa anche non valutare fino in fondo l'idea che possano esserci troppi rischi. Io credo sia questo, più che poi se si possa o meno tornare indietro o se si rischi o meno anche facendoli da qualche altra parte. Posso fare il discorso che ho fatto prima, vale per gli europei, vale per il calcio, ma vale per qualunque attività pubblica, quindi per qualunque situazione in cui ci saranno moltissime persone. Eppure io sono sicuro che qualche concerto sarà cancellato, qualche manifestazione magari viene adesso, spostata, non necessariamente si va avanti sempre comunque. No, però il discorso è che torniamo a vivere normalmente oppure no. Tra l'altro in Francia ci saranno stadi nuovi, moderni, ipercontrollati, quindi insomma ci saranno le condizioni per provare a proteggere, l'evento. Luca da Udine, Luca. Ciao. Eccoci. Permettimi di dire solo una parola, sì, su quello che è successo ieri. Una cosa disumana, un attentato a mio avviso dei peggiori, dove ci sono stati dei ragazzi che hanno sparato ad altri ragazzi che non torneranno più a casa. Una cosa assurda. Questa è la guerra. Sì, difatti è la guerra, non è neanche un attentato, credo. E anche questo è un pezzo, grazie Luca, del nostro discorso. Per chiudere con Demetrio Albertini, visto che poi il calcio invece settimana prossima tornerà il calcio di Serie A, perché finirà la sosta della nazionale e c'è Juventus-Milan. Io ho letto in questa settimana che tu hai detto non è una partita decisiva per nessuna delle due, non è un dentro e fuori. Perché? Dentro fuori per lo scudetto, perché sinceramente oggi tutte e due sono abbastanza distanti. Il Milan è un cantiere ancora aperto, perché per la prima, secondo me, dopo diversi anni ha potuto buttare un po' le basi per poter raggiungere dei traguardi importanti e non può permettersi di stare fuori dalla Champions League, mentre la Juventus è partita, ha avuto qualche problema in più di quello che uno si poteva pensare, perché ha cambiato parecchio, avrà meno certezze. Devo dire che davanti ci sono due squadre molto attrezzate, molto abituate in questo momento, visto che sono arrivate tutte e due seconde e terze negli ultimi campionati, come la Roma e come il Napoli, che stanno viaggiando bene. Ma secondo te ha senso legare il futuro di Mihajlovic a Juve-Milan? No, assolutamente no. Cosa che sembra fare il Milan-Berlusconi? Non lo so, questo sinceramente lo leggo anch'io, però mi sembra un po' più una cosa giornalistica che qualcos'altro, forse per alzare un po' la tensione nel modo giusto, ma non lo so, ma secondo me non credo, personalmente non lo reputo neanche giusto, perché è una partita che può succedere qualsiasi cosa, no? È normale, uno può anche perdere e poter pensare di proseguire e avere un cammino buono durante il campionato o poter vincere e poi dopo incappare in un momento negativo dopo. Spero di no, cioè spero che non sia vero questo. Secondo me è delicatissima per la Juve, Demetrio, perché sì, più che per sì, il Milan, perché la Juventus non ti dico possa avere ancora qualche ambizione di scudetto perché è troppo lontana, però deve avere certamente un'ambizione di continuità, e se vuole quel terzo posto che è determinante, una partita così non la può perdere. È vero, perché quando già più volte in questa prima parte di campionato, quando si pensava che fosse ripartita, poi c'è stato subito uno scivolone. Ricordiamo dopo alcune sconfitte in campionato, poi ha fatto bene in Champions, poi ha riperso, e quindi la continuità la Juventus la deve trovare, anche perché è una cosa anomala, no? Scendere in campo, andare a vedere la Juventus e non sapere che risultato ti può attendere. Sì. E tu sei abituato a che vinca, quattro anni che sta succedendo qualcosa di diverso. La musica è la stessa. Secondo me c'è anche qualche problema, ed è uscito anche con la nazionale in difesa nella Juventus, non solo davanti, non solo la difficoltà e il mercato che non ha dato il trequartista, ma poi insomma avremo tempo per parlarne. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio, bene, grazie. Ciao a tutti. Grazie Demetrio Albertini, 800 24 00 24. Gli anni passano per tutti, anche per i difensori della Juve. Poi cercheremo anche di capire cosa può fare Conte per la nazionale. C'è chi chiede se gli stadi italiani sarebbero preparati per evitare il disastro. Non lo so. Non sono preparati per nulla in questo momento, nemmeno per accogliere in maniera civile le partite della domenica. Io penso questo, gli stadi italiani sono al momento dei luoghi, in molti casi oltre il confine della civiltà. Quindi, poi c'è chi dice, questo tanto per cominciare, Paolo, che se la prende con la Formula 1 che corre regolarmente, tanto 19 giri su 71 in Brasile, tutto come alla partenza, Rosberg, Hamilton, Vettel e Raikkonen. Poi via WhatsApp 349 238 6666, c'è chi scrive: gli europei vanno fatti in Francia, anche a Pisa. È stata suonata la Marsigliese prima del minuto di silenzio, non avrebbero dovuto correre, probabilmente dando il segnale che lo sport comunque si fermava. Invece è giusto dare segnale opposto e rispettava. Eugenio da Bergamo. Eugenio. Sì, io vado contro quello che lei ha appena detto, perché sì, non capisco perché dobbiamo fermarci qualsiasi attività culturale o cosa. Il rispetto è un conto, ma fermarsi neanche in tempo di guerre mondiali si è fermati, a meno che c'erano dei bombardamenti dell'ultimo momento. A meno momento. Che non ci siano ragioni, serie ragioni di sicurezza, questo è evidente. Beh, guardi che anche durante le guerre mondiali durante le guerre mondiali lo sport si fermava. Io parlo da musicista di musica classica, lavoro in un'orchestra sinfonica, e noi siamo in teatri dove i controlli c'è zero, per cui guardi, ci sono esempi famosi di bombardamenti eccetera. Io quello che dico è: se noi ci fermiamo diamo un segnale negativo. Sì. Il ragionamento deve essere il rispetto del dolore, che si fa in tanti modi, ma non in maniera così demagogica come fermarsi solo una volta. Sono d'accordo. Il ragionamento deve essere che allora i controlli li facciamo in tutti gli avvenimenti di massa, che vuol dire 500 persone come 30.000, perché non c'è solo il calcio, e il ragionamento deve essere: se ci fermiamo l'abbiamo vinta. E oltretutto, ripeto, fermarsi una volta non ha senso, allora bisognerebbe fermare tutti i campionati, tutto a tempo indeterminato. Ma per quale ragione poi? Sì, però non si può neanche pensare di schierare un esercito. Io ho letto numeri pazzeschi in quanto a mobilitazione di agenti, forze dell'ordine, esercito, ad esempio, in proiezione per Francia 2016, così come è stato negli ultimi mondiali in Brasile, ad esempio, sì, che sono stati mondiali dal punto di vista della sicurezza a rischio. Beh, ma tu immaginati se i mondiali in Russia dovessero essere quest'anno o l'anno prossimo. Lì sì che allora ci sono molti ragionamenti e molti discorsi. Però tanto per dire, da due stagioni a questa parte, ucraini e russi nelle manifestazioni calcistiche dell'UEFA non si incontrano. Uh-huh. Perché poi alle volte ci sono ragioni pragmatiche superiori anche al simbolismo dello sport. Questo è corretto. Questo è corretto, ma mi chiedo se non sia un tema che possa essere aperto buttando là lo sguardo anche verso l'europeo del 2016. Non lo so, aspettiamo gli amici da casa 800 24 00 24 oppure via sms o whatsapp 349 238 6666. Torniamo subito. Ciao, sono Celse Cosmi. A prescindere, io sono orgoglioso di rappresentare il mondo dello sport e lo sport non conosce paura. Andiamo in Francia e non lasciamoci intimorire. Io che sono anche DJ, oggi trasmetterei volentieri Imagine per dare un segnale di pace. Ciao a tutti. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Purtroppo non riguarda solo lo stadio quello che sta accadendo, cioè potrebbe succedere la stessa cosa entrando in un ristorante o camminando per strada, quindi non possiamo tra virgolette fare niente, nel senso non significa che non si può più fare una partita di calcio, non si possono fare più delle passeggiate, dobbiamo avere fiducia ad altri enti che stanno sicuramente cercando di colmare, di eliminare questo problema che al momento è un problema triste, però cioè, la vita va avanti, bisogna non arrendersi ma cercare di reagire. Oh, vi leggo le parole di Todd, perché non era tanto il fatto che in Brasile oggi corrono, ma no? Quello che ha detto, questo era Pelé, quello Pelé. Che ha detto Jean Todd ieri, ha detto: avevamo già programmato di fare qualcosa in occasione della giornata di celebrazioni per le vittime della strada. Ogni giorno sulle strade perdono la vita 3.500 persone, 30 volte in più rispetto al numero di persone che sono morte negli omicidi di Parigi. Avevamo deciso un minuto di silenzio, naturalmente non possiamo ignorare quello che è successo a Parigi, quindi faremo un momento di attenzione anche per Parigi. Insomma, questo paragone tra le vittime delle stragi di Parigi e chi muore sulle strade in incidenti stradali. Mi sembra una sciocchezza talmente questo grossa. Questo è quello che ci segnalavano, sperare, gli amici da casa. Voglio sperare sia stato travisato, non abbia detto quelle cose, che mi sembra una sciocchezza talmente grande che non vale neanche la pena di commentarla. Comunque, questo ha detto Jean Todt, uno dei vertici, dei capi della Formula 1. 800 24 00 24. Marco da Milano. Marco. Sì, buonasera a tutti. Buonasera, buona domenica. Niente, il mio intervento è molto semplice, appunto, come diceva prima Pelé, tutti, io essendo un giocatore di calcio, comunque stamattina abbiamo fatto un minuto di silenzio. Ora sospendere addirittura le partite, i campionati, sarebbe come dare la vittoria al terrorismo. Quindi sì, però Marco, io immagino tu giochi campionato amatoriale, dilettanti, esatto. Un conto è che la domenica mattina sui campi di tutta Italia gli amatori, i dilettanti giochino. Un conto è quello che si chiede di fare. Poi andremo anche in Svezia, dove ieri sera hanno giocato, ovviamente primo esempio di come si possa giocare dentro un fortino, perché c'erano grandissime preoccupazioni anche per Svezia e Danimarca, per tutte le altre partite che l'UEFA ha confermato, confermata l'amichevole in Inghilterra. Io non credo si possa fare un paragone tra le due attività. No, non si può fare un paragone tra le due attività, questo è evidente, però torno a ripetere, se non esistono problemi di sicurezza, io credo che non abbiano preso queste decisioni a cuor leggero, quindi credo che ci siano diverse forze in campo in questo momento, servizi segreti e quant'altro, senza entrare poi nello specifico, però se non ci sono fondamentali esigenze di ordine pubblico, cioè simbolicamente io non accetto che lo sport si fermi, semplicemente questo. No, scrive su WhatsApp Christian da Modena: penso che non si debba fermare nulla, ma debba cambiare molto, ci debbano essere più controlli. Poi c'è anche, dice, che abbiamo sempre fatto pena, oggi superiamo ogni limite perché affrontiamo questo tema. Salutiamo l'amico. Poi ci chiede se gli spettatori ci saranno in Francia. Andrea, e come se ci saranno gli spettatori? Tra l'altro si legge che il problema maggiore, più ancora che negli stadi, è per le cosiddette fan zone, cioè per tutti gli altri momenti in cui ci sono decine di migliaia di spettatori da tutta Europa, in Francia, per gli europei. Fammi salutare Pier. Ciao Pier. Ciao, ciao Luigi. Ciao. Ciao. Tu come la pensi sul tema? È giusto o no che lo sport si fermi? O ragioni, magari buttando in là il pensiero sull'opportunità o meno di andare in giugno a fare gli europei in Francia? Che lo sport non si può fermare, così come il Giubileo non si può fermare a Roma. Nel senso che è chiaro che delle preoccupazioni ci sono, delle paure ci sono. In Francia ovviamente sono ancora maggiori, perché la Francia è un paese che già due volte è stato colpito pesantemente quest'anno da questi passi. Però insomma, può sembrare banale, retorico dirlo, ma è chiaro che la nostra vita si basa su questa libertà. Nel momento nel quale questo tipo di mondo smette di essere libero, nel momento nel quale la gente smette di praticare lo sport, di seguirlo, di andare al cinema, di leggere, di informarsi, di andare a cena al ristorante, di fare una passeggiata, di bere una bottiglia di vino, finisce per rompere quella che è, anche se poi la forza e la specificità di questo modo di vivere, che poi insomma è il nostro. Quindi è chiaro che le paure, le incognite, le preoccupazioni sono tantissime, ed è complicata la partita che i poliziotti, ma più ancora di loro i responsabili dei servizi segreti, dovranno svolgere in questi mesi. Ma non vedo francamente alternative. No, non ce ne sono. Ma questo vale per la vita di tutti noi, dovremmo accettare delle maggiori precauzioni. Dopo l'11 settembre del 2001 improvvisamente sono aumentati i controlli. Io ancora mi chiedo, l'altro giorno mi hanno fatto buttare una bottiglietta di colluttorio, perché la regola era quella, insomma, cosa, a chi potessi far male su un aereo con una boccetta di colluttorio, ma quelle sono le regole, sopra ai 100 ml bisogna buttare via tutto. Sì, io credo che qualcosa cambierà anche adesso, e anche cambierà la sicurezza dentro e intorno alle manifestazioni sportive, agli stadi. Ho fatto la telecronaca di Inghilterra Stati Uniti al Mondiale in Sudafrica, che era stata la partita che Al-Qaeda e vari blog del tempo avevano definito come la partita perfetta nella quale sarebbe scoppiato a Rustenburg nel mondiale sudafricano. E mi ricordo, insomma, dei controlli particolarmente pesanti, il metal detector. Ecco, ci saranno queste cose qui che sono già certamente una sconfitta e una limitazione alla libertà delle persone, a un certo modo di vivere. Appunto libero, basato sulla velocità degli scambi, però diventano determinanti, cioè noi, sai, ti ricordi prima dell'11 settembre prendere un aereo era come prendere l'autobus, no? Poi adesso siamo perfettamente abituati a un certo tipo di controlli, quindi mi sembra la verità fatale. È che la quantità, ma questo è un discorso generale che non riguarda solo lo sport, la quantità di luoghi, di situazioni da controllare è talmente enorme che questa la cosa che mette paura, no? Sì, ogni treno, ogni vagone della metropolitana. Ma certo, ma proprio per questo credo sia legittimo parlarne. Poi dopo, per carità, si può e si deve forse anche scegliere di andare avanti. Fatemi salutare Max Nerozzi, inviato della Stampa, che ha seguito l'Italia a Bruxelles. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Tra l'altro credo che l'Italia abbia già indicato quale sarà la sede del suo ritiro, Montpellier, o comunque insomma è la destinazione preferita. Ma noi siamo rimasti a un ballottaggio Montpellier, periferia di Parigi, poi non so se abbiano già scelto definitivamente il ritiro. Qui ci sarebbe un giochino di parole, perché Conte voleva un ritiro blindato, ma per noi giornalisti l'avrà blindato in tutti i sensi. Me lo fate sentire Conte dopo Belgio Italia a proposito? Siamo stati puniti oltre del dovuto, c'è stato il pareggio su un calcio d'angolo, il secondo gol è stato un nostro errore. Mi spiace, perché secondo me l'atteggiamento era quello giusto da parte dei ragazzi sotto tutti i punti di vista. Affrontavamo sicuramente una squadra che ha talento, ha volontà, però mi ritengo comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi. questo Conte dopo la sconfitta contro il Belgio. Parentesi calcistica, ne parliamo. Io mi sono sorpreso che ci si sorprenda delle difficoltà della difesa. Chiedo a Max Nerozzi, che tra l'altro segue la Juventus abitualmente, a me pare che da fine agosto ci fossero segnali chiari che Chiellini e Bonucci non sono nella stagione migliore. Sì, ci sono stati dei segnali che secondo me hanno delle concause. Uno, Bonucci è già arrivato a 1440 minuti. È caduta la linea di Max. Eccolo, prego. Ha giocato 1440 minuti con la Juve e praticamente gioca più di allenarsi, e oggettivamente è già molto, molto provato per questo punto della stagione. Ovviamente Chiellini ha fatto degli errori che non sono da lui, e in più si è complicato la vita con infortunio al polpaccio, e quindi non sta meglio. Certo che siamo appesi a quelli, perché ci sarebbe Rugani, ma non gioca neanche nella Juve, quindi mi sembra molto dura inserirlo in nazionale. Ma oggi possiamo dire che la difesa italiana è un problema, è un'emergenza in vista dell'europeo? Lo chiedo a te, poi lo chiedo a Pierluigi, a Carlo. Ma guarda, visto che Buffon diceva che lui non crede ai casi, io avevo fatto ieri due conti. Se tu prendi lo stesso pezzo di stagione l'anno scorso, partite nazionale più partite Juve dei tre juventini di Bruxelles, cioè Buffon, Bonucci e Chiellini, più o meno prendono il doppio dei gol a partita. Sarà un caso. Quindi il problema c'è, lo possiamo aprire, no? Insomma, sui fatti c'è, e poi magari ci smentiscono e siamo tutti più contenti. Pier. Sì, il problema c'è, non ci sono dubbi. È vero pure che l'europeo e il mondiale sono manifestazioni nelle quali conta moltissimo il logorio dello stato di forma in quel momento. L'aspetto fisico, che sottolineava De Rossi, è fondamentale. E quindi in questo momento Bonucci certamente è molto stanco rispetto ai suoi rivali, no? degli altri paesi. Magari verso la fine della stagione potrebbe essere diverso, magari potrebbe trovare una situazione di condizione migliore. È ovvio che non sono esattamente tre ragazzini, e quindi l'elemento del logorio pesa molto. Quindi questa cosa vale per la nazionale, vale anche per il club. Sì, credo anche pesi che al momento non ci sono alternative. C'è il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Tutti convocati. C'è anche chi chiede se non sia arrivato il momento di parlare di Buffon. Io, secondo me, è arrivato il momento di dire che se Chiellini e Bonucci resteranno lì, anche perché non ci sono alternative. Oggi Conte non le ha, non mi sembra. Non le ha, stiamo aspettando con grande interesse, ad esempio, la crescita di Romagnoli. Ci sono alcuni ragazzi giovani, però andiamo a giocare un europeo. Io credo che Chiellini soprattutto, cioè, ci andremo con Chiellini e Bonucci. Ci andremo con Chiellini e Bonucci, perché, e magari Barzagli, perché io credo che in quel momento lì serva davvero chi è più in forma, servono delle garanzie. Insomma, i discorsi sul futuro li faremo dopo. Dico che è preoccupante soprattutto la condizione di Chiellini, perché ha messo in fila una serie di partite macchiate da errori che non gli avevamo mai visto fare. Poi sarà il caso di voltare pagina con Chiellini, con Buffon. Beh, magari Bonucci può puntare al mondiale per ragioni anagrafiche, però insomma io credo che questo sarà un discorso che viene dopo all'europeo. Bisogna andare con le certezze che abbiamo. Magari anche con, non so, chiedo a Max, poi lo saluto, con un modulo un po' meno bello, forse un po' meno offensivo, che protegge un po' più la difesa. Cioè, se dietro c'è qualche problema di errore individuale, forse si può risolvere qualche metro avanti. Sempre questione di equilibrio. Max. Sì, io penso che Conte ormai abbia scelto il modulo per l'europeo, tenendoci sempre in garage il 3-5-2 per situazioni di emergenza, ma difesa 4 e 4-2-4, che voglio si dica, 4-4-2 o 4-3-3. È vero, io penso che Barzagli, dicevate prima, andrà sicuramente agli europei, però non si può accusare Conte di non fare il ricambio generazionale, anzi potrebbe essere un iconoclasta, perché oltre a Pirlo, che per me al momento oggi è fuori dall'europeo, rischia molto un giocatore che è strepitoso, che a Pierre piace molto, che si chiama Daniele De Rossi. Secondo me Daniele De Rossi a oggi deve giocarsi il mondiale, perché Conte ci ha detto che porterà due giocatori per ruolo, tranne il Florenzi o il Giacchini, sono i giochi, quindi sono quattro centrocampisti centrali, Verratti e Marchisio vanno sicuro. Parolo l'ha sempre fatto giocare, anche l'altra sera sono andato benissimo, e rimane un posto per De Rossi, Soriano e Bertolacci. Soriano è un giocatore che a Conte piace molto, quindi secondo me De Rossi oggi non è sicuro del posto. Sì, anche se può anche arretrare di qualche metro e giocare in difesa, magari potrebbe alla fine entrare perché è multiuso. Ma quattro centrali chiamerà sicuro, perché o a Storia o a Cervi ci andranno, quindi non so se vale la poliedricità di De Rossi in questo caso, però tutto è possibile, per carità. Grazie Max. Ciao Max. A voi, ciao, buon lavoro. Grazie Max Nerozzi. Faccio dei documenti tre latine. Se ne io credo, questo lo riconosci, Carlo? È Ibra. Questo è inconfondibile. Ibra in svedese. Posso confondermi Bonucci, Pelé, qualcun altro? No, questo è Zlatan Ibrahimovic. Parlo ovviamente anche lui di Parigi. Fammi salutare Jennifer Wegerup. Ciao, Jennifer. Ciao. Ciao. Ci va o no Ibra all'europeo? Vediamo. Almeno adesso abbiamo vinto 2-1 con la Danimarca in casa, però sarà una partita molto difficile, ovviamente, a Copenaghen martedì sera. Sì, risultato pericoloso. Io spero proprio. Il 50,4% di volte passa adesso, Jennifer. Poi tocca. 50,4%. Jennifer è una svedese italiana, sì. Napoletana, no? Che quindi sarà provvista di tutta la serie di ferri di cavallo, di corni e di peperoncini. 50,4% delle volte, quindi lievemente sopra la metà, passa la squadra che ha perso 2-1 fuori casa. Però, quindi il 50,4% delle volte passa la Danimarca, visto come è andata ieri. Dire, sì. Però vediamo. Poi è un derby, quindi in un derby non si sa mai. Abbiamo fatto guerra per 600 anni, quindi in queste partite ci sono molte emozioni. Sì, avete anche fatto il biscottone per un giorno. No, è quello che pensano gli italiani, ma assolutamente. Ma sì, l'avrei fatto il biscottone, vabbè, ma no, vogliamo bene un po'. Sì, possiamo stare fino a mezzanotte, ma non la metà mai. No, invece voglio dire che una partita così guidata. Ognuno conosce i suoi propri vizi, ma io preferisco avere il 49% di possibilità, ma avere Ibra in quadra piuttosto che avere il 51% e non averlo. E avere Jorgensen. No, poi basta con grandi manifestazioni senza Ibrahimovic. Sarà la sua ultima chance. Ma è questa, però, Jennifer. È un po' l'ultima vera grande chance. L'ultimo grande palpiteri. Penso assolutamente di sì. Penso anche adesso, in una mia lunga intervista la settimana scorsa, che potrebbe anche giocare 1 o 2 anni ancora in Europa, però voglio dire, mondiali sono nel 2018, se la Svezia ce la farà, e quindi non credo proprio che giocherà ancora. A quel punto almeno giocherà, credo, negli Stati Uniti, quindi sì, è l'ultima chance. Senti, di quell'intervista pubblicata in Italia anche sulla Gazzetta dello Sport, mi ha incuriosito il passaggio sul Milan. Cioè, abbiamo scoperto che per 2 mesi quest'estate abbiamo inseguito il nulla, perché Ibra ha detto no subito, è arrivata l'offerta ma non aveva voglia di venire a Milano. No, non era proprio così. Poi voglio dire, lui è troppo intelligente per dire esattamente tutto quello che è successo, almeno. Però io direi che lui non è che ha detto no subito, perché il Milan che ha chiamato, poi si parlava di Mr. B, di nuovi soldi, di un nuovo grande Milan, quindi magari un po' hanno parlato, poi invece ha capito che non sarebbe stato così, che come abbiamo visto anche, e quindi niente, non c'era nessun motivo per lui andarci. Ma secondo te è un capitolo chiuso definitivamente? Penso di sì, se non, cioè, poi è la vista, però io penso che lui dovesse rimanere in Europa. Lui adesso era molto onesto nell'intervista, lui non sa cosa farà la prossima stagione, secondo me dipende dalle offerte che avrà. Perché non è neanche scontato che resti a Parigi, poi insomma si vedrà. Anche se vuole pensare di arrivare nel 2018 al mondiale, deve restare in Europa. Abbiamo visto che gli esili dorati negli Stati Uniti e dintorni non funzionano. Non credo che abbia gli europei nel mondiale nel mirino. Non rimane a Parigi, però non credo, dopo 4 anni non credo né lui né loro vogliano di più, e non andrà mai, penso, nel Qatar o un altro paese arabo, perché non è né per lui né per la moglie, quindi penso una Stati squadra Uniti. In Europa o le Stati Uniti. Jennifer, è vero che gli piaceva Napoli, che c'è stato un momento che ha avuto un paio d'anni fa una pazza idea per qualche giorno nella sua testa di andare a Napoli? Sì, no, ma gli è piaciuto, perché l'ha visto già da giovane, mi pare, con Cannavaro, cioè un po' di su uno scooter, hanno girato la città, bellissima immagine, e gli piace molto, ha detto anche a me in qualche intervista, anche fuori intervista, che lo stadio, la stazione di San Pastore, poi non ha mai giocato in tutta Italia, mai Roma, Napoli. Si è detto anche che gli sarebbe piaciuta Roma, insomma, comunque vediamo, io sono sicuro che ne riparleremo anche l'estate prossima. Grazie Jennifer. Ciao Jennifer. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Jennifer Wegerup. Il dato è che ieri la Svezia ha battuto 2-1 la Danimarca e i bravi europei ci andrebbe di corsa con o senza il dibattito, vero Zlatan? Saluto gli amici di Radio 24, va bene. Io sono molto contento di vittoria, ma mio cuore piange. Sì, ma se vi qualificate avresti paura ad andare, no? In Francia? Io non sento, non ho capito. Avresti paura ad andare in Francia, io gli europei? Io non sento, I don't hear you, io sono Zlatan, ok? Number one, io non ho paura, I'm not afraid. Ma non c'è nulla di scandaloso, dopo quello che è successo, insomma, che si discuta della cosa. Il mio vocabolario non c'è parola paura, va bene. I'm number one, io voglio vincere il campionato in Europa e voglio vincere in Francia, ok? Anche voi che ascoltate, niente paura. Vabbè, insomma, ci sono anche problemi di sicurezza, ci sono. Qualcuno che vuole impedire a me di giocare campionato in Europa? Come on, come on, come on, se tu vuoi qualcosa devi venire a me a parlare. No, ma loro non è che parlano, Ibra. Io non ho paura, come on, why don't torniamo you come subito, here? Torniamo because subito. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Tutti convocati. A parte le parole di Todd, le abbiamo lette prima, ha detto tutti i giorni sulle strade di tutto il mondo muoiono 30 volte più delle persone che sono morte nella strage di Parigi. Mi auguro che sia stata capita male, riportata una strozzata così grossa. Pierre, non ci posso credere. Non male l'amico Todd. No, ma non ci posso credere. Una cazzata di proporzioni bibliche, ovvio. Qui non è... Non si parla del numero delle vittime, che pure è terribile, ma si parla del valore, dell'attentato alla sicurezza, alla libertà, alla gioia delle persone, a tutto quello che noi diciamo abitualmente, agli scenari che si aprono, al fatto che sono persone assolutamente innocenti, questo sta da sentire. No, no, ma non ha senso dire, non so, non ha alcun senso. Il problema è che poi tu senti queste parole di Todd, penso che gli sia uscita male, penso che sia stato non lo so. Il problema è che poi tu senti queste parole, leggi queste parole e poi giustamente si può aprire il dibattito se lo sport, il calcio non si fermino perché lo show deve andare avanti comunque o perché invece abbia un senso che dia il segnale che non ci si arrende. 800 24 00 24, abbiamo ancora un'ora per parlarne. Se volete scriverci 349-238-6666 via sms e anche via WhatsApp. Intanto ci sono dichiarazioni di Cavani e di David Luiz, che come sappiamo sono impegnati con le loro nazionali, e David Luiz ha detto: ho la mia fidanzata, la mia famiglia e i miei amici a Parigi, sono tristi e spaventati, non so cosa farò e se tornerò lì, è il mio lavoro, ma forse per me resterei qui. E Cavani ha detto più o meno la stessa cosa, a quanto pare. È stato riferito da Alvaro Gonzalez, che dice: Edison ha detto che anche lui non rientrerebbe. Chiaro che è il momento dell'emozione. Sì. È il momento dell'emozione. Giancarlo dalla provincia di Piacenza. Giancarlo. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Buonasera a tutti. Tre cose velocissime, poi lascio spazio. Sì. Quando ho sentito all'inizio della trasmissione, così perplessità, timori, eccetera, spostiamo, a me è venuto in mente immediatamente quei fantastici pannelli che comparivano sui negozi inglesi subito dopo i bombardamenti nazisti. Business as usual. Deve continuare tutto come prima, tutto come prima, con maggiori attenzioni, con maggiori cure, rinforzando qui e eliminando là. Io, tra l'altro, lo troverei anche offensivo per quei ragazzi, per tutti quegli innocenti che sono stati ammassati in modo indegno lì. E francamente una soddisfazione del genere a una banda di tagliagole codardi. Quindi si è sbagliato le altre volte che lo sport magari in ritardo però si è fermato. C'era anche chi segnalava, ad esempio, lo sport si è fermato quando le condizioni di Papa Wojtyla si aggravarono, almeno in Italia. Sì, perché non è vero che lo sport non si ferma mai. No. Lo sport è stato anche capace di fermarsi, ha anche fatto questa scelta. Intanto scrive un amico, anche nel campionato di Serie A di pallavolo maschile, l'incontro a cui sto assistendo è iniziato con la Marsigliese. Bene. Abbiamo detto che è un simbolo che ci è piaciuto. Beh, infatti non avrebbe senso fermarsi, ma ricordarlo in modo simbolico, in questo tipo, per quel che può valere contare, è certamente un bel gesto. Questo è quanto, ecco, insomma, mi sembra corretto agire in questo modo, punto. C'è chi dice che Todd non perde occasione per mostrare quanto è, si può dire, stronzo, sì. Sì, si può dire. Lo scrive un amico, Edi da Milano. Ma è anche una persona intelligente, Todd. Sì, a me sorprende, è anche francese, quindi ma è francese, sorprende, ma insomma, è una persona che sia mancato di sensibilità in questa maniera. Cioè, non è l'ultimo dei parvenu, quindi mi sembra stranissimo che abbia detto una sciocchezza di quella portata. Francesca da Torino. Francesca, buonasera. Buonasera. Io anche sono d'accordo che lo sport non si debba fermare per questa cosa, in quanto, anzi, celebrare ogni qualvolta si sta insieme, che si sta insieme nonostante questi tragici e terribili eventi. E la seconda cosa che ci terrei a dire è che ci sono paesi e popoli che da 20 anni non è che si interrogano sul fatto di andare o meno allo stadio, ma che vanno al lavoro, in moschea o al mercato e si ritrovano fatti a pezzetti. Quindi sì, noi purtroppo adesso abbiamo la consapevolezza che tutto ciò può accadere. Anche da noi, mentre siamo storicamente abituati a leggerlo in altre aree del pianeta. Anche questo è vero, c'è anche chi scrive dicendo, beh, chiediamoci se valgono di più questi morti che tanti altri che ci sono in altre parti del mondo, per cui non, nemmeno ci si come chiede se si debba fermare lo sport o qualsiasi altra attività. A parlare di valore dei morti, una roba che mi fa caponare la pelle. Pier Staley, che c'è il traffico, torniamo subito. Ma sì, ciao a tutti, sono Dino Zoff. Ho più di 70 anni e lo sport mi ha insegnato che chi si ferma è perduto, e allora noi non dobbiamo fermarci. Si va in Francia e si vince col solo gesto di esserci. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta convocati. Una sensazione bruttissima, proprio stasera che eravamo qua per ricordare un'altra tragedia dello sport, siamo rientrati in spogliatoio con questa terribile notizia, gente che a fare una serata per una cena o a vedere una partita si ritrova a rischiare la vita per colpa di qualcuno che crede che questa sia la strada percorribile nel mondo. Questo era Bonucci, Questo però era Bonucci. Quello vero, quello di prima era Pellè, questo era Bonucci. 800 24 00 24. Pier, ci sei? Pier? Sì, ci sono. Allora, lo chiediamo ad Alessandro Grandesso, come stanno affrontando in Francia il dibattito su quello che è successo e sugli europei del prossimo mese di giugno. Alessandro, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Corrispondente della Gazzetta dello Sport da Parigi. Oggi hai scritto una doppia pagina su come i francesi stanno affrontando la grande paura. Mi sembra, leggendo la stampa francese, che il tema loro se lo siano posti da subito e abbiano una grande paura. La paura c'è, però bisogna distinguerla dalla volontà di comunque continuare a condurre la normalità, la quotidianità. Anche dal punto di vista sportivo, ovviamente il fatto che sia stato attaccato all'inizio proprio lo Stade de France durante una partita importante come Francia-Germania ha sollevato subito le incertezze, i dubbi legati al prossimo europeo, però la risposta mediatica in parte, ma soprattutto dei responsabili, quelli che poi andranno a organizzare l'europeo, cioè i responsabili dell'UEFA qui in Francia e della Federcalcio, sono stati unanimi, che vuol dire non dobbiamo neanche porci la questione se dobbiamo o meno organizzare l'europeo si fa. Lo sport anzi deve essere uno strumento per andare avanti. Mi sembra l'atteggiamento giusto, cioè l'unico possibile. Pardo Pier. Sento, mi sentite? Sì, eccoti, ti avevamo perso, ci sei. No, dico, l'atteggiamento è giustissimo e ripeto, ognuno di noi può suo delle paure in questo momento e ci sono degli eventi particolari che fanno particolarmente paura perché appunto la coincidenza con un grande evento sportivo come l'europeo oppure appunto il giubileo o altre cose che ci potranno essere, poteva essere anche l'Expo evidentemente, insomma queste grandi manifestazioni fortunatamente non alcanza nulla. Chiaramente mettono una paura e una agitazione ancora superiore, su questo non ci sono dubbi, anche se poi quello che tra il venerdì terribile di Parigi è che il rischio c'è sempre, c'è anche il banale venerdì qualsiasi, certo. In un locale come tanti altri, chiaro che l'aspetto mediatico è un aspetto importante, la cosa terribile, tremenda del terrorismo diffuso negli ultimi 15 anni e soprattutto della filosofia dei kamikaze è che cambiano anche le regole di ingaggio e la difficoltà poi di relazionarsi a questo tipo di fenomeno. Non esistono regole di ingaggio. Sì. Appunto, se ci sono persone che sono comunque pronte, anzi che sono consapevoli che stanno per perdere la propria vita in nome di qualcosa e che quindi si girano con una cintura di esplosivo. Sì, diventa difficile controllarle e prevenirle. Difatti mi sembra, Alessandro Grandesso, che il tema, al di là della tenuta degli stadi, e ripeto, il paradosso è che venerdì notte la sicurezza intorno allo Stade de France ha funzionato, il tema sia che poi tu ti porti in casa decine di migliaia di tifosi da tutta Europa per un mese, ci sono le fan zone, ci sono tutti gli altri momenti. Infatti, è su quello che si ragiona. Esatto, infatti su quello che, perché la sicurezza allo Stade de France ha funzionato, probabilmente ha permesso che si evitasse la strage, perché sono due barriere, se vogliamo, quella prima dei biglietti e poi delle perquisizioni, quindi a quanto pare, secondo le ricostruzioni fatte, il prima terrorista non è riuscito a superare queste barriere, indipendentemente dal fatto che avesse o meno il biglietto. Il problema è effettivamente sollevato e dalla Federcalcio e in particolare anche dagli organizzatori del prossimo europeo è quello che ruota intorno all'europeo e agli stadi o agli hotel delle varie nazionali, cioè dove si ritrovano i tifosi, che siano appunto le fan zone o comunque dove ci sono gruppi di tifosi. D'altronde uno dei rischi in generale dell'antiterrorismo, studiati dall'antiterrorismo, sono appunto poi anche i soft target, cioè i bar dove si riunisce la gente, ed è quello che poi è successo anche purtroppo venerdì. Lì la situazione diventa quasi un gioco d'azzardo, non si può prevedere capillarmente tutto quello che questi passi sì. possono pensare. Anche perché prescinde anche dalla grande manifestazione, cosa, questo. Per chiudere con Alessandro Grandesso, confermato che martedì la Francia va in Inghilterra. Sì. Sì, sì, no, questo è stato, c'è stato un inizio di titubanza nelle prime ore del mattino, quindi di sabato, ma è stata subito, diciamo, cancellata dalla presa di posizione della Federcalcio. Ha detto: si continua, si gioca, si va in campo, un motivo in più per andare in campo per dimostrare che la Francia non cede alla minaccia terrorista. Partita ovviamente ad altissimo livello d'allerta, chiaramente, ma dobbiamo abituarci. Esatto, hanno spiegato: la Francia vuole giocare, poi se eventi maggiori, una presa di posizione dell'Inghilterra, che magari non vuole giocare o correre i rischi, quello cambierebbe le carte, però l'atteggiamento della Francia è quello di andare in campo. Quindi se non ci saranno cause di forza maggiore o il sentore di problemi, ma è chiaro che questo non compete alle autorità sportive, questo compete a un altro tipo di autorità. Grazie Alessandro. Ciao Alessandro. Grazie, buona serata. Grazie ad Alessandro Grandesso. Piero, abbiamo ancora 5 minuti, vero? Prendiamo qualche ascoltatore. Melita da Roma, Melita? Io, mi sente? Eccoci, prego. Allora, io ho 65 anni. Sì. E voglio dire che purtroppo tutto secondo me deve continuare. Non è un fatto di lo somatico o. È la vita che deve andare avanti. Certo che nessuno può essere costretto di affrontare dei rischi, però se non si fanno le cose come in precedenza, hanno vinto loro, hanno vinto gli assassini. Io sto pensando ad Israele, dal 1946 è in continua lotta con attentati come a Parigi ogni settimana, ogni mese, per mesi e mesi. Sì, sì. Poi un po' di tregua, poi di nuovo ricominciano. Sì, con le stesse modalità, tra l'altro, con le stesse modalità. E, quanto ha detto, mi ha preceduto, bravissima, per aver ricordato questa situazione. In Israele sono da 46 che fanno i conti con il terrorismo di questo stampo e di questo stile, ma la loro preoccupazione è cosa dobbiamo fare per garantire la sicurezza, la normalità degli eventi. Non si fermano i campionati, non si fermano le coppe, ci sono squadre europee che vanno continuamente, costantemente a giocare. Ci sono anche squadre europee che non vanno a giocare in Israele, in alcuni momenti ci si sposta, si gioca in campo neutro, perché ripeto, ogni tanto lo sport si è fermato, ha fatto un passo indietro. Pier, quando si ferma lo sport si ferma per rispetto di quel famoso episodio dell'11 settembre, con tra l'altro anche quel caso, vi ricorderete che si giocò di fatto a poche ore dall'attentato, perché in Russia praticamente la partita era alle 6 ore italiana, quindi di fatto era tre ore dopo l'attentato, quindi non c'erano i tempi tecnici. Poi il giorno dopo invece l'UEFA decise di non giocare, ma quelle sono forme di rispetto, diciamo, sono forme di cordoglio, perché non c'è in quel momento la serenità. Io ero spettatore di quel Roma-Real Madrid di martedì 11 settembre 2001, c'era un clima surreale allo stadio, c'è nessuno in quel momento, almeno niente, ma insomma, ma anche agli stessi spettatori, anche ai tifosi, importava poco in quel momento della partita, perché era talmente clamoroso quello che era successo che, ma in generale la regola, l'unico antidoto che c'è è vivere, non c'è niente da fare, è vivere e cercare di fare in modo, attraverso le diplomazie, attraverso l'intelligence, i servizi segreti e le forze di sicurezza, di ritrasformare questo nostro occidente, questo nostro pezzo di mondo, in un luogo tranquillo per vivere come piace a noi, con tutti i difetti, con tutte le sporcizie e le schifezze che denunciamo dalla mattina alla sera, gli scandali, gli sprechi, i politici corrotti, però li possiamo insultare, capisci? La forza è che li possiamo insultare, possiamo, se non ci piace, votare per qualcun altro. Cioè, nella democrazia occidentale ci sono mille difetti, mille problemi, mille cose che non funzionano, però c'è sempre la possibilità provare a fare cose diverse, però abbiamo le nostre sacrosante libertà, capisci? Ovviamente parziali, ovviamente provvisorie, ma ci sono, e questo tipo di modello a livello mondiale secondo me è molto attraente, piace molto, però in questo momento fronteggia qualcosa che non è mai successo prima, a questi livelli secondo me non è mai successo prima. Pier, ti saluto, però ti saluto con una cosa che scrive un amico, 349-238-6666 via WhatsApp. Parlando della nazionale, dei problemi della difesa, Rugani è un bidone o un campionissimo? È uno che non gioca mai. Certamente non lo sta giocando, certamente lo sta prendendo Allegri, appena giunto di contro il Siviglia. Io all'inizio della stagione, insomma, in un gioco del pantacalcio da qui a 2-3 anni, vedevo Rugani e Romagnoli come la coppia titolare della nazionale. In questo momento sono in difficoltà tutti e due, soprattutto Rugani, quindi sarà importante recuperarlo. Credo che se si andrà avanti così, magari Rugani potrà essere prestato. Posso dire una cosa di 25 secondi? Sì. Che uno degli aspetti collaterali dal punto di vista dello sport è che questa tragedia ovviamente non ci ha fatto parlare a sufficienza invece della ITEL, del ricordo e della sensibilità di una federazione che quando sbaglia, quando fa gaffe, lo diciamo mille volte, lo ripetiamo senza ma, ma secondo me ha fatto una cosa molto bella, perché ritirare la maglia, ricordare e scegliere di giocare quella partita in Belgio proprio per onorare la memoria delle 39 persone, con Andrea Lorenzini, con i rappresentanti delle vittime, insomma è una cosa molto bella, e anche questo ovviamente deve far parte poi della valutazione morale di questo tipo di federazione. Poi le gaffe lo diciamo perché sono inaccettabili, però insomma l'altro giorno secondo me è stata una cosa molto toccante. Sì, lo sport ha un grande valore simbolico, ma in fondo è su questo che ci stiamo interrogando anche oggi. Ciao Pier. Ciao Pierluigi. Ciao. A domani. C'è Luca da Grosseto, però ci fermiamo un minuto, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Oh, c'è un amico che scrive al 3492386666 che oggi la coppia Acerbi Cannavaro è superiore a Barzagli Bonucci. Chiellini, immagino anche. Barzagli Cannavaro, ma non saprei, cioè certamente Barzagli è un giocatore rinunciabile per la Juventus. Chiellini è in un pessimo momento di forma, Bonucci non è brillantissimo, su Cannavaro qualche dubbio mi rimane. Però qualche tentativo si potrebbe fare, anche partendo dal presupposto che forse non ci sono alternative. Però cosa ti possono dare Chiellini, Bonucci e Barzagli, lo sai. Mi sembra che Astori stia facendo una buona stagione, per esempio. Cioè, mi sembra anche che dia qualche garanzia in più rispetto pure a Cannavaro, che sta giocando un'eccellente stagione all'interno di una macchina che funziona perfettamente, cioè Sassuolo. Sì, Luca da Grosseto. Sì, buonasera. Eccoci, buonasera. Buonasera. Sì, sulla questione dell'organizzazione degli europei, volevo dire, ovviamente è legittimo interrogarsi sull'opportunità di organizzare gli europei in Francia, però distinguerei i due aspetti. Cioè, un conto è quando lo sport si ferma per una questione di rispetto per i morti dovuta a un evento di terrorismo, a una catastrofe naturale, alla morte di un personaggio come il Papa, e allora lì vabbè, è una questione come quando viene proclamato un lutto, è giusto anche fermarsi per una questione di rispetto. Ma se ci interroghiamo sulla questione della sicurezza, io direi che invece proprio gli eventi di venerdì hanno dimostrato che i terroristi questa volta hanno voluto colpire dei luoghi che erano semplicemente impensabili come obiettivi. Io credo che nessuno dei malcapitati nel ristorante cambogiano a Parigi potesse pensare di essere capitato in un posto pericoloso, ecco. Quindi diciamo forse anzi i terroristi, la strategia dei terroristi è cambiata, il loro obiettivo è quello proprio di cercare dei luoghi che non sono controllati, da questo punto di vista. Però hanno anche cercato di entrare allo stadio in mezzo a 50.000 persone. Questo è vero, però bisogna anche essere razionali. Se uno firma gli europei in Francia, devi fermare anche il Tour de France, perché non credo che l'arrivo di una tappa... Beh, Roland Garros, non puoi più giocare. Un arrivo di una tappa come il Tour de France, cioè forse ancora meno, sicuramente molto meno difeso di uno stadio. Ora, l'emotività è ovvio che ci porta ad avere paura, questo è naturale, però non si sono fermati i campionati fino a quando la Seconda Guerra Mondiale non l'ha proprio impedito. Io direi che insomma, bisogna stringere i denti e cercare comunque di andare avanti, perché sarebbe una cosa irrazionale, ripeto, non dovremmo fare più niente. Anche d'altra parte vanno molte meno persone in uno stadio anche di un campionato europeo, piuttosto che, non so, il numero di persone che vanno nella metropolitana a Parigi in una non facciamo i paragoni, insomma. Vi prego, perché le parole di Todd prima ci hanno hanno già soddisfatto qualunque tipo di paragone. No, ma il tema è, secondo me, che ci sia questo automatismo di chiedere allo sport di rivestire il simbolo di chi non si arrende e non si ferma, e quindi non si possa nemmeno ragionare dell'ipotesi che, ad esempio, in una nazione di fatto in guerra come è oggi la Francia e sarà nei prossimi mesi, sia opportuno o meno organizzare l'europeo. Poi si va e si fa. Ma è il tema, lo sport, ma tutto quanto, che pragmaticamente decidere che è troppo alto il rischio sarebbe un segnale di rese, non semplicemente una valutazione che magari si fa accorciando gli orari della metropolitana, tenendo chiuse le scuole, cose che si fanno spesso nelle stesse ore, nelle stesse settimane, laddove succede qualcosa di terribile. Possiamo comunque conoscere una verità molto parziale, superficiale, possiamo farci un'opinione su questa, ma ci sono ad altro livello si lavora proprio in questa direzione, e se a quel livello, che è quello dell'intelligence, che è quello delle forze speciali, di chi è preposto a certi controlli, se a quel livello diranno no, il rischio esiste ed è grande, vedrai che cambieranno idea. Nessuno lo farà lì a tutti i costi. Allora, saluto Martin Castro Giovanni, una delle stelle del nostro rugby, che adesso ci dirà qualcosa sulla Francia, però ciao Castro. Ciao, buonasera. Intanto vi faccio sentire Arriva Bene, microfoni di Sky, appena finito il Gran Premio, ha vinto Rosberg. È finita così, però voglio dire, la macchina e Sebastian hanno dimostrato che il lavoro paga, ma anche ci hanno fatto capire che ce n'è ancora da fare. Abbiamo visto grande reattività da parte di tutto il team, con un cambio di strategia in corsa che ci è sembrato davvero molto brillante. Poi d'accordo, le Mercedes ne vanno di più, ma ci fai capire come è scaturita questa idea di sovvertire un po' quelli che erano i progetti iniziali? Sai, noi abbiamo sempre detto che a venire in vacanza non ci stiamo, per cui è stato fatto questo cambio di strategia in corsa, anche per i dati gomme, consumo gomme che avevamo, abbiamo detto andiamo, però voglio dire, nonostante Kimi sia rimasto sulla vecchia strategia con delle gomme che non rendevano quello che dovevano, riuscito anche lui a doppiare tutti. Sì, Kimi Räikkönen, che ha preso 45 secondi, quarto da Rosberg, terzo Vettel, secondo Hamilton, primo Rosberg. Martin Castro Giovanni, per farci raccontare un po' come la vede un atleta, un grande atleta che vive, gioca in Francia, come sta vivendo queste ore, Martin? Guarda, la Francia ieri, soprattutto oggi c'era un po' più di gente sulle strade, ma ieri era veramente incredibile, era tutto deserto, sembrava veramente nessuno usciva da casa, cioè, penso sia un po' normale, no? Subito dopo che la gente abbia paura, ma oggi si vedeva un po' più di gente. Sono andato a un parco con la mia famiglia, qui c'è mia mamma, mia sorella e i bambini, e c'era già più gente in giro in questo parco qui, però sai, alla fine non è stata una cosa, diciamo, da sottovalutare, è stata una cosa molto grave. Io infatti quella sera lì stavo mangiando non lontanissimo da quello che è successo, e tornando a casa ho visto che passavano le ambulanze, la polizia, e tu cosa sarà successo. Arrivati a casa, dopo accendo la TV e vedo quello che era successo, sai, un po' sconvolgi, perché poteva succedere anche a noi, stare lì, no? E non è una cosa molto molto bella, sinceramente. No, certamente. Adesso c'è il dibattito sulla sicurezza, Martin, come sai, volevano entrare dentro lo stadio, eccetera, ci sono gli europei di calcio. Però io credo che tutto debba andare avanti regolarmente, nei limiti del possibile e nei limiti della sicurezza. Tu dentro uno stadio ci vai tutte le domeniche con tutto il popolo del rugby, no? Sicuramente. Non bisogna dimostrare giusto, paura adesso. No, penso che sia stato giusto comunque dare il lutto che penso che tutta questa gente meritava, e non giocare in Francia, non solo per il lutto, ma anche per una questione di sicurezza, perché anche noi dovevamo giocare sabato e non si è giocato. Però sai, io penso che lo sport è libertà, ed è giusto che comunque si vada avanti, no? Perché penso che queste persone qua quello che vogliono è questo, no? È creare il terrore, che la gente abbia paura, e penso che un modo di combatterlo, se le forze dell'ordine, chi dovere, deve fare, diciamo, il suo lavoro, e c'è di si può giocare come stavate dicendo voi, no? Si è sicuro, si gioca, ma penso che sia giusto giocare e andare avanti, no? Però sono loro che dovranno comunque dare la sicurezza, ma è giusto giocare, perché è anche un modo di lottare contro questa cosa qui, no? Con lo sport, con la libertà, con la gente che va allo stadio, perché alla fine è bello, e penso che comunque questi personaggi qua vogliono creare questo, no? Il terrore. Certo. Ed è giusto comunque anche combatterlo così, però è giusto anche avere certezze, no? Perché una persona adesso dice va allo stadio, la paura di, sai, non è neanche una cosa facile. Però come io penso che, sai, purtroppo bisogna andare avanti e continuare così, e vedere saranno loro adesso a decidere a decidere cosa si farà, però forse più controlli, non lo so, però non è bello, no, andare a uno stadio e sapere che comunque dopo quello che è successo che si corre il rischio. Sì, abbiamo letto prima quello che stanno dicendo altri grandi campioni che vivono e giocano a Parigi, abbiamo letto di Cavani, abbiamo detto di David Luiz, scrivono loro: se potessimo non torneremmo, sono via con loro nazionali, scrivono, non so se tu condividi questo pensiero o no. No, io nel senso, io per esempio, no, io la vedo dal lato, io adesso ho i miei nipotini a casa e io ho paura per loro, non per me, nel senso che io andrei in giro, farei di tutto, ma solo, senza mettere a rischio la gente, diciamo i miei cari. Penso che loro comunque gente che abbia famiglia e tutto, che sia giusto, è giusto avere paura, però è giusto anche dare la fiducia alla gente che ha da fare il suo lavoro, come la sicurezza e i servizi intelligenza, perché penso che comunque adesso avranno un occhio in più e queste cose spero e mi auguro che non capitino più, perché siamo nel 2015 e questo è veramente orrendo quello che è successo. Però se ognuno la può pensare come vuole, sì, per loro stanno tranquilli stando a casa, è la loro decisione e bisogna rispettarla, nel senso, no, ognuno fa della sua vita quello che vuole, la pensa come vuole, questo è importante saperlo, però sì, sai, alla fine uno può pensare per me stesso, io non ho paura per me stesso, perché alla fine io comunque mi piacerebbe dimostrare a queste persone che non... È il momento, Martin, dell'emotività, del resto, e anche purtroppo della cronaca, perché c'è anche la cronaca e c'è anche cronaca proprio in questi minuti. Anna Migliorati qui con me, dalle 19 parte uno speciale. Sì, dalle 19 vi racconteremo come si vive a Parigi in queste ore, cosa sta succedendo, ma entriamo già subito, perché da Parigi c'è Gigi Donelli e sta succedendo nuovamente qualcosa a Parigi. Gigi? Sì, Anna, quello che sta succedendo purtroppo non sono in grado di dirlo, però posso raccontarvi che circa 5 minuti fa la piazza della Repubblica, dunque il cuore delle manifestazioni dove si erano raccolte migliaia di persone, è stato improvvisamente non tanto evacuato, ma è partito un fuggi dal fondo della piazza quando qualcuno ha urlato sparano. E allora cerchiamo di ragionare a mente fredda. Io personalmente ero in piazza sotto la statua, intorno a me centinaia di persone, alcuni cantavano, alcuni pregavano, non ho sentito gli spari, ma abbiamo sentito chiaramente le urla delle persone. Allora, improvvisamente dalla parte di Rue des Fossés le persone si sono messe a correre, un'ondata letteralmente, l'intera piazza si è svuotata verso il lato opposto, persone che cadevano, che venivano aiutate a adattarsi, bambini. Ecco, diciamolo, pochi minuti fa, Gigi, non... situazione di panico 5 minuti fa. 5 minuti fa abbiamo parlato di 5 di forse 6 minuti fa appunto, con un grande fuggi che assieme alle persone si sono distribuite e rifugiandosi. Francamente non sono in grado di dirti da cosa, perché questa è la realtà. Tieni conto che Repubblica è il centro di questa giornata del cordoglio. Ecco, dove ci raccontavi, Gigi, del pomeriggio, ecco, si è radunate migliaia di persone. Migliaia di persone, esattamente. Stiamo parlando di un luogo che dista circa 100 metri, forse ci sono novità. No, ci sono delle persone che cercano altre persone. Il centro di questa situazione, e stiamo parlando di qualcosa di circa 250 metri dal teatro Bataclan. In questo momento intorno a me ci sono persone che piangono, ci sono persone che consolano altre persone e ci sono persone che cercano di capire esattamente cosa sia successo. Ecco, tu in questo momento vedi soprattutto questo, cioè dopo la fuga, il cercare un po' di ricongiungersi e di riuscire a capire. Le forze dell'ordine erano in piazza, ci sono? Assolutamente sì, immediatamente sono partite le sirene. Ecco, ormai la situazione è tale che passa un rumore qualsiasi per suscitare appunto il silenzio, lo spavento per queste persone che si circondano. Come potete immaginare, qui è la situazione, come dire, dalla misura di quella che è la paura di queste ore, paura che è fatta da un lato dal desiderio di riunirsi delle persone e dall'altra dal puro terrore e quanto. Del terrore. Allora ti lasciamo raccogliere notizie, Gigi, per capire anche cosa sta succedendo. Lasciamo ancora la linea allo sport. C'è anche l'interruzione per il traffico, ma naturalmente con Gigi Donnelli torneremo in qualunque istante per darvi qualunque aggiornamento e poi, come sempre, ovviamente GR24 e il nostro speciale. Sì, speciale che parte alle 19 e si chiuderà alle 21. Io ringrazio e saluto Martin Castro Giovanni. Ciao, ciao Martin. Castro. Ciao ragazzi, buona serata. Questa è Parigi oggi, purtroppo è il momento dell'emotività, lo dicevamo, è anche il momento della cronaca. Andremo avanti a raccontarla fino alle 21. Traffico. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento. Tutti convocati. Michele da Milano, Michele. Sono io, sì, sono io. Eccoci. No, prego. Dico, avere paura, e mi stavo ascoltando qui al telefono, è legittimo, è naturale, è comprensibile, e tutti gli strumenti di contrasto, di sicurezza, di cose attivati, che insomma, non servo io per dirlo, penso che sia di tutti gli stati. Però se si cede alla paura in qualche maniera, se non si combatte questa cosa, se non, avendo paura, non si cerca di contrastarla, equivale a dare, come dire, una vittoria, no? Cioè quello che è in gioco è il nostro modo di vivere, le cose che l'Occidente ha conquistato. Il messaggio che è uscito dal popolo dello sport, da chi segue lo sport questo pomeriggio, mi sembra una voce univoca. Sì, c'è chi dice però qualche accorgimento si può prendere, ad esempio giocare solo di giorno, vedremo. Fammi salutare Antonio Boselli, ciao Antonio. Ciao, buonasera a tutti. Squadra motori di Sky, non è stato credo un gran premio che ricorderemo. Abbiamo sentito prima, arriva bene, ha detto non eravamo qui a fare vacanza. Alonso sì, l'abbiamo visto ieri prendere il sole, però insomma mi sembra non c'è stato neanche un sorpasso quasi. No, guarda, l'unica emozione forse è stata la gara di Max Verstappen. Voglio iniziare con lui semplicemente perché è un pilota che ci regalerà da qui ai prossimi 10, 15, forse 20 anni una, secondo me, una carriera fantastica. Ha fatto diversi sorpassi, quello su Perez alla S di Siena, la prima chicane, è stato fantastico, quindi accontentiamoci, ecco, insomma, di uno spettacolo che non è stato grandioso. Sì, purtroppo, dico purtroppo, la Mercedes, per assicurare il secondo posto in classifica piloti di Rosberg e la vittoria, forse anche per avere un pilota motivato nel 2016, ha adottato una strategia un po' conservativa, ha fatto copiare la stessa strategia Hamilton, che era secondo, potevano magari andare con così da evitarsi problemi, no? Sì, magari era meglio, perché così permettevano ad Hamilton di, insomma, variare un po' la strategia, magari fare l'ultima parte di gara all'attacco, invece così insomma hanno un po' congelato le posizioni. Questo è stato un po' un peccato. E poi teniamo anche i 13 podi di Sebastian Vettel, che supera i 12 del 2007 di Raikkonen, il miglior debuttante i piloti Ferrari nella storia del cavallino. Non ho capito se la Ferrari sia più o meno lontana dalla Mercedes rispetto a un paio di mesi fa. Vicinissima, no. Perché credo sia questo poi il tema, perché siamo già proiettati verso l'anno prossimo. Sì, diciamo che in gara si è visto scritta una Ferrari dietro i 2, 3, 4 decimi rispetto alla Mercedes. Si era un po' allarmati ieri e venerdì per le prove libere in qualifica, dove si è visto un distacco nettamente, cioè più grande. Vediamo, secondo me adesso sono poco giudicabili, bisogna vedere Abu Dhabi la prossima gara. Secondo me la Ferrari dovrebbe essere un po' più competitiva su una pista cara poi a Vettel, che lei ha vinto il titolo mondiale nel 2010, detto che poi lo sappiamo, è tutto proiettato verso la prossima stagione. Anche la Mercedes, che ha dominato qui, pensate, ha fatto 11 doppiette in questa stagione, diciamo che adesso secondo me siamo agli sgoccioli, ecco, della stagione, quindi dovremo vedere le posizioni che sono abbastanza consolidate, e cambierà poi la pista, cambierà un po' l'esito della gara, proprio la pista stessa. Sì, speriamo. Speriamo che l'anno prossimo ci porti qualcosa di più, anche se ci diceva, ci ricordava giustamente Antonio Boselli, i numeri promuovono Vettel. Assolutamente. Nella storia dei debuttanti della Ferrari. Grazie Antonio. Ciao Antonio. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Grazie a Antonio Boselli. Del mondiale di Vettel. No, siamo soddisfatti, però i punti si pesano si oltre che contarli. Chiaramente, si aspettava con l'ultima vittoria che voleva dire il paradiso, non è arrivata, ma... Però non è ancora finita, credo. No, non è ancora allora, finita. Noi invece abbiamo finito qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabella, Gianmarco Ferronato in regia, Andro Mercù che ci ha accompagnato anche oggi. Appuntamento domani dopo il GR delle 14 con tutti i convocati. Noi torniamo domenica prossima dalle 17 alle 19, è il weekend di Juventus Milan. Ci sentiamo, ciao, buonasera a tutti.